Diari di quarantena, quarta puntata. Emergenza sanitaria, Covid-19. Musica, attualità, riflessioni critiche in difesa della libertà. Poesie magnifiche, sognando un nuovo mondo. Un mondo nuovo che prima o poi verrà. Diari di quarantena, quarta puntata. Emergenza sanitaria, Covid-19. Musica, attualità, riflessioni critiche in difesa della libertà. Poesie magnifiche, sognando un nuovo mondo. Un mondo nuovo che prima o poi verrà. Benvenuti e benvenute qui su Radio Forte per la rubrica Diari di quarantena, lo spazio dedicato a tutti coloro che vogliono esprimersi, rompendo questi muri di distanze e di silenzio, entrando in contatto gli uni con gli altri. Vogliamo ascoltare i vostri pensieri, i vostri racconti, le vostre poesie o semplicemente poter comunicare insieme per trascorrere al meglio questi giorni chiusi in casa. Ciao a tutte le compagne e compagni, siamo oggi qui per la quarta puntata dei Diari di Quarantena con Enrico Capuano come ospite. Avremo il piacere di intervistarlo. Enrico Capuano è il capostipite del folk rock italiano dal 1980. Allora Enrico, parlaci un po' di te, della tua storia, delle origini del folk rock italiano e quali sono, se hai avuto insomma collaborazioni importanti nell'ambito musicale, e poi soprattutto la domanda che ci riallaccia anche alla rubrica dei Diari di Quarantena: come ti sei vissuto questo periodo di lockdown in quanto artista, quindi considerando appunto che hanno soppresso serate, concerti, quindi situazioni di raggruppamento musicale, insomma, quindi ecco, come te lo stai vivendo questo momento? Insomma, dici un po' tutto quanto. Beh, partiamo partiamo dall'ultima domanda che tu mi hai fatto. Prima di tutto, stare fermi a un certo punto, dopo che tu per 40 anni sei andato sempre in giro a suonare, eccetera, eccetera, fa un effetto stranissimo. Da una parte può essere anche positivo nella disgrazia generale quello che stava succedendo, perché dici, vabbè, ti riposizioni un po', dici, e mo? Che succede? No, cominci a pensare, a riflettere. Poi ti dai, all'inizio dici, vabbè, facciamo qualcosa di positivo, utilizziamo bene il tempo, nonostante la drammaticità che non lavori, cioè perdi il lavoro, uno che suona fa sto mestiere, a un certo punto ti trovi senza lavoro, quindi nonostante tutti i pensieri faticosi, però a un certo punto approfittiamo per fare un pezzo. Però ho scoperto che, ecco, proprio il fatto che stavo in casa senza fare, non ero stimolato a fare delle canzoni. Cioè, sembra assurdo. Magari mentre fai il viaggio e vai a suonare, eccetera, viene la frase, ti viene. Addirittura ho scritto una canzone dopo il mio trapianto di cuore, dedicato a chi mi ha donato il cuore. E quindi per me la situazione della mascherina, eccetera, è abbastanza normale, perché io mi devo difendere avendo i difese immunitarie più deboli. Quindi per me, a me non è cambiato nulla da certi punti di vista, devo dire, sul fatto dell'igiene, lavarsi le mani, questa è una cosa che uno fa perché è una tutela personale. Poi detto questo, penso anche che questo sia un grande esperimento sociale, diretto o indiretto non lo so, ovviamente, però è una cosa che ci deve un po' riflettere ognuno di noi proprio nel profondo, perché chiaramente questa cosa condizionerà, ci ha condizionato, e bisogna un po' ridefinire un attimino la situazione. Spero che passi al più presto, ovviamente, perché è vero che c'è sta internet, è vero che ci stanno i social, è vero che bisogna affrontare anche questo mondo e non fare i snob e dire, ah, vabbè, allora invece il social, quello è un mondo che in qualche maniera deve avere una presenza. Però è vero pure che l'importanza dello spazio fisico, diciamo nel senso tradizionale, che in realtà quello reale è fondamentale. Ma è chiaro che è fondamentale, perché serve. Soprattutto per chi ha un approccio folk come me della musica, eccetera, è più di quello, e quindi questa roba piano piano bisogna in qualche maniera ritornarci. Detto questo, sul folk rock devo dire che c'è una band, comunque io dal 1980 faccio folk rock, avevo i miei fratelli che già facevano del folk progressivo in una band che nacque proprio a Centocelle, a via Castelforte, tra altre cose. Dove è l'attuale Casa del Popolo, sì, Giuseppe sì. Di Vittorio. Sì, okay. Proprio là. C'erano degli studenti e operai dell'epoca che formarono un gruppo, si chiamava Roma Periferia, diventata poi cooperativa lavoro culturale, che era legata alla seconda ondata del nuovo cancelliere italiano, dove un po' animava tutto quanto un cantatore, anzi un artista legato alle canzoni di lotta, che si chiamava Ivan De La Mea, carissimo mio amico, tra altre cose, che ha scritto canzoni memorabili. Mentre la prima fase era il nuovo cancelliere italiano, la prima fase del nuovo cancelliere italiano invece era soprattutto animata negli anni 60, io non ero nato, da Gianni Bosio, che era una cosa interessante perché lì uscirono fuori molte canzoni legate alla resistenza, canzoni popolari, un'interpretazione, diciamo, della storia attraverso le canzoni e attraverso gli occhi del popolo, no? Quindi una storia non scritta ma cantata. E questo è un po', c'erano etnomusicologi molto bravi, e quindi fecero un bellissimo diciamo spettacolo nel 64 che si chiama Bella Ciao, dove Bella Ciao è stata un po' più conosciuta, perché Bella Ciao non era una canzone legata alla resistenza, era forse più Fischi al Vento, per capirci. Però poi grazie a questo spettacolo si fece conoscere un po' di più, tra virgolette. Quindi c'è una storia di questo tipo che a me mi è arrivata tutta, ovviamente arrivandomi questa storia della musica popolare e arrivandomi anche l'amore per il rock. Ovviamente il rock per me era Hendrix, Deep Purple, Zeppelin, Black Sabbath, tutto quello che è stato il movimento hippie, se vogliamo, che arriva tutta quella roba lì, quindi quell'atteggiamento lì, quel rock lì, dove dentro c'erano pace, amore, libertà, tutto quello che volete. Però queste due cose hanno fatto sì che io amassi il folk rock. Ripeto, il folk rock ha una canzone però prima di me importante, che si chiama E Festa, fatta dalla PFM, e quella è veramente la prima tarantella rock forse della storia, se vogliamo dirla tutta. Io ho avuto la fortuna di suonare, tra altre cose, per un anno e mezzo con Franz Di Cioccio della PFM, abbiamo fatto un bel tour insieme, per me è stato un grande onore suonare con lui in occasioni meravigliose, dove c'erano aperture meravigliose come Le Orme, per me tutti i gruppi importantissimi, perlomeno per la mia generazione. Calcola, VFM ha fatto un bellissimo disco di André, cioè veramente un pezzo di storia della musica italiana, quindi suonare con Franz Di Cioccio è stata una cosa veramente molto molto interessante, anche dal punto di vista proprio di imparare quell'esperienza di quella generazione lì, che è stata una generazione molto importante. L'altra cosa importante è che la musica popolare italiana è bella perché è ricca di momenti. L'Italia è un paese veramente multiculturale, non ha niente a che vedere con quello che viene identificato da culture fascistoide, stupide, che danno un concetto sia di tradizione statico e sia di nazione in quel modo così brutale, folcloristico nel senso peggiore della parola. Cioè, proprio, l'Italia invece è un paese meticcio, già di per sé è un paese dove ogni 50 km abbiamo una tradizione anche diversa, anche musicalmente abbiamo la tarantella, la pizzica, il saltarello, la ballarella, il freestyle. Noi ci siamo inventati il freestyle quando invece di farsi un bellissimo cannone si faceva invece tre quarti anche di vino. C'erano in provincia di Rieti, come potrebbe essere anche in Sardegna, le persone che si sfottevano attraverso ad esempio a Rieti con le ottave in rima, cioè avendo un'estetica poetica si sfottevano, certo. Si facevano le battute dentro una gara vera, proprio una vera e propria gara poetica, e questa è una forma una nostra, una sorta di poetry slam, se vogliamo. Sì, brava, è proprio questa roba qui ed è fighissimo, fa parte della nostra tradizione, tanto per dire. Quindi chiaramente la musica popolare è uno stimolo pazzesco. Negli anni 80 io ho iniziato in un concertino al Forte Prestino, non l'occupazione perché non esisteva l'occupazione, era una festa popolare che si faceva là davanti, e io feci il mio primo proprio concerto a 16 anni e da là subito dopo 12 concerti con un gruppetto che facevamo folk rock così. E adesso ancora continua questa saga, e questa è come Guerre Stellari, no? Continua sempre. Poi in questi anni tante collaborazioni, per cui ecco, una tra le tante, visto che sto parlando alla Radio del Forte, ho suonato un anno e mezzo in maniera molto bella e simpatica facendo un'improvvisazione pura con Zulu dei 99 Posse, in un periodo in cui i 99 Posse si erano un po' fermati, insomma lui ecco, io e lui abbiamo fatto un anno e mezzo di improvvisazione ed è stata un'esperienza anche lì molto interessante, dove lui faceva la band, improvvisava, io facevo le mie canzoni, lui faceva le sue, a volte si intrecciavamo con delle improvvisazioni vere e proprie, quindi da Rigurgito Antifascista, Curicura Vaiò, fino ad arrivare a Muriata Rocche, fino a giocare, anche lì facevamo delle gare poetiche che si chiamavano in giro. Quindi una commissione. Sì, è stata un'esperienza bella, questa è nel 2009. E poi tantissime altre cose, perché io penso c'è tanto da imparare. Nella musica bisogna avere sempre due orecchie e una bocca per ascoltare il doppio rispetto a quanto si parla, quindi capire anche nel mondo nuovo, per me nuovo, io insomma non so proprio pischello, capire cosa sta avvenendo, imparare per poi magari ci sono dei stimoli nuovi, bisogna sempre essere curiosi, perché se perdi la curiosità perdi anche la creatività. E questa un po' è. Quindi questo fermo è stato terribile, però speriamo che bello da una parte perché ti fa riflettere, però poi bisogna riprendere un attimino i nostri percorsi. Ok, e quindi insomma speriamo di ritrovarti, di rivederti presto nelle piazze, quindi con la tua musica, con il folk rock. E un'ultima domanda, e quindi in questo momento tu come sei andato avanti? Cioè ti sei fatto, hai portato avanti comunque il tuo messaggio, la tua musica attraverso i social? Che pensi appunto poi anche di questo messaggio, di come veicolare appunto il messaggio musicale attraverso poi i social network? Cioè quanto sono fondamentali, sono stati fondamentali in questo momento, o magari ne potevamo anche fare a meno, non lo so. Ecco, dimmi un po' la tua. Io penso che gli spazi che si aprono vanno tutti presi, tutti occupati, e devi costruire una presenza. Là dove c'è gente in qualche maniera ci devi arrivare. L'importante è che la virtualità non sostituisce anche la realtà, anche se a volte chissà qual è la realtà, no? Vabbè, adesso mi sto, diciamo che c'è un rapporto dialettico tra tutte le istanze, però è vero pure che i messaggi sono molto importanti, cioè quando si fa musica, io per esempio che sono per un nuovo umanesimo, cioè dove al centro ci sia il ritorno di quelli che sono i rapporti umani, contro ogni forma di razzismo, contro ogni forma di discriminazione, dove anche le nostre contraddizioni vengono anche messe a nudo, perché non è che qua parla uno che è Dio o viceversa, ognuno di noi ha tante contraddizioni che vanno anche rimesse in discussione, bisogna mettersi in discussione e nello stesso momento crescere attraverso le proprie contraddizioni, perché sarebbe un atto di presunzione, qua le rock star non esistono, francamente non appartengono al mio modo di vedere, però tu mandi un messaggio, il messaggio lo mandi attraverso anche quando parli semplicemente di un albero, oppure pure quando semplicemente metti un accordo rispetto a un altro, oppure come gestisci lo spazio scenico di un palco, anche come ti muovi a livello corporeo, cioè secondo me questo è tutto trasmissione di è trasmissione di energia. Cioè, a volte un pittore dice, esprime un qualcosa attraverso due colori. Quei due colori possono esprimere qualcosa che magari a parole non sei neanche in grado di dirlo, però se ti arriva vuol dire che il messaggio è arrivato in qualche misura. Quindi le forme della comunicazione sono tantissime, sono oltre anche quello che noi concepiamo, e quindi di conseguenza anche la musica io lo vedo come un messaggio, non può essere altrimenti. E quindi i messaggi che noi portiamo avanti però sono messaggi che vanno in una direzione, che è quella con le dovute no compromessi, che è una parola brutta, però le dovute sensi della realtà. Non puoi far finta che stai in una nuvola, tu ti rapporti a un pubblico, cioè un conto che vada a suonare dentro al forte, un conto che vada in una sagra paesana e mi rendo conto di fronte c'è un'altra tipologia di persone, come mi capita spesso, però bisogna avere la capacità di entrare in interazione con chi sta di fronte, perché lo spettacolo alla fine lo fa la gente, certo. Non lo fai solo te, lo spettacolo, tu puoi fare il concerto, ma se te canti addosso non c'ha senso. Per me lo spettacolo è interazione. L'interazione col pubblico è fondamentale. Ma è ovvio, lo spettacolo lo fa la gente, ti arriva, certo. Cioè un artista vero è colui che entra in sintonia col pubblico, perché sennò diventa soltanto un'operazione che va bene, qualcuno lo fa, io non voglio giudicare, però con queste operazioni un po' no, egocentriche, cioè te canti addosso, vabbè, piace pure quello a qualcuno, però a me non mi dà soddisfazione. Invece quando c'è un feedback e una sinergia col pubblico, là diventa qualcosa di figo, perché tutti in qualche maniera hanno un ruolo dentro la ritualità dello spettacolo, e questa è una cosa bellissima dal mio punto di vista. E bisogna ritornare a quello, e questo lo può fa in un periodo come questo, è faticosissimo. Poi magari se scopriremo ci sono delle fonti, delle forme alternative, ben vengano, e le studieremo e le applicheremo. Perfetto Enrico, ti ringraziamo e speriamo insomma di ritrovarti presto nelle piazze con i concerti. Grazie. E chiaramente bocca al lupo dalla Radio del Forte, perché ci voleva, dai. Dai, è forte allora. Ciao. Ciao. Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, partigiano, e tu mi devi seppellire, seppellire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, si va ad un vecchio. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Faccio vedere una cosa. Fammi vedere. Sui! Congratulations. Cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Forte, adesso è arrivato il momento di lasciare il nostro spazio all'immancabile poesia, che sin dall'inizio di queste puntate ha adornato sempre la nostra rubrica. Oggi voglio presentarvi Luna Mara, una giovane scrittrice e autrice di poesie originaria della Basilicata, che, come ama lei stessa presentarsi, è stata adottata dal quartiere di Centocelle da 20 anni. Luna Mara ci ha regalato un suo contributo, una sua riflessione poetica scritta nel periodo di quarantena, dal titolo Mostri di quarantena. Andiamocela ad ascoltare. Mostri di quarantena. Durante la quarantena ho sentito spesso parlare dell'occasione da sfruttare per guardarsi dentro. Per me non è stato così. Per me è stata un'occasione per guardare fuori, dal momento che dentro di me ho sempre guardato, ogni fottuto giorno, anche prima di questi arresti domiciliari globali. Ma fuori no, perlomeno non come avrei dovuto. Ho capito che dopo aver guardato dentro e fuori di me, avrei dovuto guardare dentro e fuori anche gli altri. Questa volta senza quei filtri di bellezza che poco si addicono alla realtà dei fatti, delle circostanze e delle persone. Ho capito quanto fosse necessario aprire bene gli occhi e fare una cernita, trovando appoggio su una base oggettiva questa volta, probabilmente per la prima volta. Ho capito che quando un gesto fatto con amore cade in preda all'equivoco è solo per un motivo. Questo motivo è strettamente collegato a ciò che portiamo dentro. Mi spiego. Anche il più nobile gesto per eccellenza risulterà pur sempre orrido come il più tossico dei rifiuti agli occhi di chi non può capirlo. Per cui è irrimediabilmente inutile tanto il gesto quanto il dispiacere che ne consegue. E senza risentimento, perché non mi piace sentirmi risentita, ho capito anche che alcune persone vorrei non incontrarle più. E soprattutto vorrei non averle incontrate mai, che mi auguro di non aver mai più voglia di seminare su terreni aridi, angusti e sterili. E ancora mi auguro che il mio sguardo cada sempre solo sull'autenticità e che ne resti catturato, affascinato. Che io possa essere una calamita per chi come me ama scrutare oltre il proprio naso ed il vaderetro per chi si ciba ed ingozza di apparenza. Che ringrazio ogni giorno per quello che di bello mi viene regalato, che io possa esserne sempre all'altezza e che la distanza di sicurezza sarà il più grande insegnamento di questo 2020. finiamo con un altro contributo di Luna Mara, una bellissima poesia scritta da lei, ma letta e interpretata da Betty Wilderose, disegnatrice e tatuatrice originaria del Trentino Alto Adige, ma adottata anche lei da circa 10 anni dal quartiere di Centocelle. La poesia si intitola Un senso. Buon ascolto. Un senso. Passano i giorni, non ho paura, va in giro solo la dama più scura. Stringe il coltello dall'impugnatura, sfumo contorni tra me e quattro mura. Non mi preoccupa averla di fronte, tanti anni or sono ne vidi le impronte. Nell'incrociarla cambiò l'orizzonte, d'allora in poi le valigie le ho pronte. Dentro ci metto i momenti preziosi, i ricordi migliori, abbracci affettuosi, sguardi e sorrisi di volti orgogliosi e occhi sinceri, i più coraggiosi. Ci metto ancora l'amore che ho visto venire incontro al mio cuore pisto. Chi nel dirupo mi ha urlato che esisto, sono più bella se mi alzo e resisto. Per quel che ho dato c'è un posto diverso, lo lascio convinta che non andrà perso. A insidia e insolenza ci passa attraverso, è acqua al deserto di un arso universo. E in questi giorni chissà se lo vedi, che solo questo può reggerci in piedi. Chissà se adesso ci pensi e mi credi, sei ciò che dai, non ciò che possiedi. Ringraziamo Luna Mara e Betta per questo bellissimo spazio poetico pieno di good vibes e speriamo presto di poter riascoltare le loro voci qui in radio. Vi invito a seguire la pagina di Instagram di Luna Mara, Rime di Rame, così da poter leggere le sue bellissime poesie. Thank you. peace. She asked me what's my name, I tell her I am Connie. And I said, girl, tell me what's your name. And she tell me that her name is Jamaica. And I said, smile, girl, smile. Smile for me, Jamaica. And I said, smile, girl, smile. Ooh, Lord, smile for me, Jamaica. And never you cry, here am I. Yeah, I'm here for you, Jamaica. For me, Jamaica, Lord. Hey, she have a rich history. A beautiful woman with the sweetest gifts. Beautiful sunrise and an evening kiss. Of a nice sunset on the evening season. But she tell me, say she tired. Tired of the exploit and the liars. She give them reggae, give them beaches, give them flowers and the ferns. All she got is abuse in return. But I say, don't you worry yourself, mama. Hey, Chronix is here to your help, mama. Ooh, I said, no worry yourself, mommy. But one thing me, I beg you do for me. And I say, smile, girl, smile. Eccoci nuovamente qui con Jules per la rubrica Diari di quarantena. Adesso è arrivato il momento dell'intervista al filosofo Gaetano Sciortino, collaboratore della rivista dei pensionati e delle pensionate Infocobas, che ci parlerà di un suo articolo scritto durante l'emergenza coronavirus per il numero 65 del periodico Infocobas del mese di marzo-aprile 2020. Buon ascolto! Ciao Gaetano, oggi abbiamo il piacere di ascoltarti durante la trasmissione dei Diari di Quarantena qui su Radio Forte. Sotto mano ho il tuo articolo scritto per il giornale dei pensionati e delle pensionate Infocobas. Prima di descriverci ed entrare un po' più a fondo nei dettagli dell'articolo e dell'argomento coronavirus, potresti dirci da quanto tempo scrivete per questo giornale, quali sono generalmente le tematiche che affrontate come pensionati? So anche che per qualche anno avete fatto una trasmissione su Radio Onda Rossa cui il titolo è Senza lavoro non c'è previdenza. A te la parola. Allora, il giornale dei pensionati, Cobas, è un giornale che ormai viene pubblicato da prima in cartaceo, adesso anche online, da una decina d'anni. E tratta i temi che riguardano l'ambito delle pensioni, ma non da un aspetto solamente corporativo, perché sarebbe altrimenti poco interessante. noi dobbiamo considerare che le pensioni, questo è l'assunto fondamentale, sono salario differito. Quindi, essendo salario differito, il mondo del pensionato è sempre legato al mondo del lavoro. Tant'è vero che noi abbiamo fatto per un paio d'anni a Radio Onda Rossa una trasmissione "Senza lavoro non c'è previdenza", e quindi ben sapendo che se il lavoro è precario anche la previdenza diventerà precaria. Quindi questo significa che noi abbiamo pensato sempre di legare nella circolarità del mondo, cioè lavoro, pensione, non lavoro, di fare tutto un circolo molto rispetto a queste idee, collegare e chiudere questo circolo, che è il circolo del mondo del lavoro. Naturalmente con l'attacco al mondo del lavoro che c'è stato negli ultimi 30 anni è necessario fare chiarezza sotto questi aspetti, perché l'ideologia dominante, l'ideologia neoliberista che si è affermata dalla fine degli anni 80 e oggi imperversa ancora, ha sempre contrapposto il padre contro il figlio, il pensionato contro il lavoratore, cioè creando e dicendo sempre che uno dei due, in genere il pensionato o il vecchio, sottraeva reddito al giovane. Ecco perché c'era una condizione, capito, di precarietà nel mondo giovanile, nascondendo d'altronde le cause che erano riguardate da quella che era l'ideologia dominante e gli interessi della classe dominante che la esponeva. Quindi questo è il quadro su cui si è mosso il nostro giornale, sul quale si è mossa la nostra trasmissione. In them juice, them diluting. 666 digits, L is the limit. No for them a demon and that is not secret. Them a different species. Allora, l'articolo da te scritto, intitolato "Il re probo virus", si apre con una citazione di Marx: se l'essenza umana non è qualcosa di astratto che sia immanente all'individuo singolo, ma nella realtà l'insieme dei rapporti sociali, l'ambivalente natura del virus si manifesta inconfutabilmente come attentato alla salute umana, e su questo suo aspetto la lotta deve essere senza quartiere. Quindi dobbiamo attenerci alle cogenti prescrizioni che la scienza medica ci impone, ma d'altra parte si deve ammettere che il virus si presenta anche quale fonte di disvelamento delle contraddizioni in cui si muove la società. Ecco, puoi spiegarci, Gaetano, che cosa intendi per un virus che è fonte di svelamento di contraddizioni sociali? Quali sono quindi queste contraddizioni e perché sono venute a palesarsi completamente durante questo periodo di emergenza sanitaria, che certamente ha atterrato ancora di più il già di gran lunga provato sistema sanitario nazionale? Ma nel tuo articolo fai un tipo di analisi politica e sociale che va oltre l'oggettività dei fatti e analizza più a fondo quelle che sono state appunto le contraddizioni di questa crisi. A te la parola. Le contraddizioni in cui si muove la società, che sono contraddizioni irrisolte, perché noi viviamo una sofferenza che, a parer mio, è indotta dai rapporti sociali, cioè dai rapporti liberistici che ormai dominano da una quarantina d'anni le società occidentali, perché noi non siamo in crisi per mancanza di risorse, noi soffriamo la crisi per eccesso di ricchezza. Questo significa che il lavoro è talmente produttivo che con pochi lavoratori vengono soddisfatti i bisogni della società. Siccome però la società vive contraddittoriamente, cioè il rapporto tra capitale e lavoro, cioè sono i possessori del denaro, i capitalisti che decidono chi deve lavorare o non lavorare, nel momento in cui tutta una serie di bisogni vengono soddisfatti da poco lavoro, una parte dei lavoratori vengono emarginati dal processo produttivo. D'altra parte, le classi subalterne non hanno ancora sviluppato quella coscienza di riappropriarsi della riduzione dell'orario di lavoro, anche e soprattutto a parità di salario, per una redistribuzione del lavoro necessario e del tempo libero per sviluppare forme sociali più evolute. Questo è quello in cui l'aspetto sociale in cui noi ci muoviamo. Il virus che fa? Attacca la società proprio sotto questo aspetto, perché ad esempio ha messo in evidenza le contraddizioni della sanità, cioè i tagli che sono stati effettuati nella sanità in nome del risparmio economico e quindi in nome della dell'aumento dei malati e della sofferenza sociale. Tant'è vero che eravamo impreparati nel momento del virus ad affrontare malattie di questo tipo. Quindi il virus, colpendo l'uomo e la donna nella loro natura umana, disvelano anche i rapporti sociali. E quindi noi dobbiamo sapere pure che, come potrei dire, l'attività predatoria dell'umanità nei confronti della natura, generando le distruzioni ambientali, l'inquinamento e l'appropriazione continua di territori che per noi erano estranei, ha generato un contratto, come dicono gli scienziati, sempre più immediato tra noi e il mondo selvatico. E questa è una possibile causa del sviluppo del passaggio del virus dal cosiddetto pipistrello all'uomo. Quindi, se noi cessassimo la nostra attività predatoria, essendo gli individui più intelligenti apparentemente dell'ambiente, e diventassimo custodi del mondo naturale, forse condurremo una vita migliore per noi e gli altri animali. Bene, e adesso per chi non ha letto l'articolo, io direi che è arrivato il momento di leggere questo articolo molto interessante e lo leggiamo ora qui in radio. Il reprobovirus di Gaetano Sciortino. Se l'essenza umana non è qualcosa di astratto che sia immanente all'individuo singolo, ma nella realtà l'insieme dei rapporti sociali, l'ambivalente natura del virus si manifesta inconfutabilmente come attentato alla salute umana e su questo suo aspetto la lotta deve essere senza quartiere. Quindi dobbiamo attenerci alle cogenti prescrizioni che la scienza medica ci impone, ma d'altra parte si deve ammettere che il virus si presenta anche quale fonte di risvelamento delle contraddizioni in cui si muove la società. Infatti, se il virus è portatore di malattia e purtroppo anche di morte, tuttavia il suo essere fuori dal comune ha generato scompiglio in ciò che dal senso comune era considerato normale, facendo traballare convenzioni considerate indiscutibili verità, e ciò va scritto a suo merito. In primis, l'aver messo in evidenza che la scelta scellerata di far profitto sulla salute pubblica, nonché la regionalizzazione della sanità pubblica portata alle sue estreme conseguenze con l'autonomia differenziata, figlia idiota dell'ideologia neoliberista, sta gettando il paese totalmente nel caos. Se questo ancora non succede, lo si deve alla grande professionalità e abnegazione del personale ospedaliero. Siamo passati, negli anni 90, dalle USL, unità sanitarie locali, alle ASL, aziende sanitarie locali, trasformando il cittadino da utente di un pubblico servizio a un suo cliente. Inoltre, dobbiamo tenere presente che, per assicurare livelli minimi di assistenza, LEA, prima che si manifestasse la potenza letale del virus, occorrevano almeno 47.000 tra medici e infermieri, da aggiungere all'organico preesistente per il funzionamento ordinario, e invece abbiamo assistito alla sottrazione di ben 37 miliardi alla sanità pubblica e a una decurtazione di posti letto ospedalieri da 500.000 negli anni 80 ai 210.000 odierni. Ma se questo era il passato, oggi il virus ci invita alla resipiscenza, costringendoci a fare in modo che niente sia più come prima. Se possiamo continuare ad esprimerci così, altro merito del microbo è quello di aver mostrato i limiti del modello produttivo basato sul just in time. Pochi giorni dopo la chiusura della MTA di Codogno si sono bloccate per mancanza di prezzi della componistica aziende quali la FCA, la Sevel, la Renault, la BMW, la Peugeot e la Jaguar. Ed infine dobbiamo dire che la natura egualitaria del morbo ha messo in crisi il sistema economico mondiale. Forse questa sua natura potrebbe essere considerata come uno scampolo di socialismo sfuggito al controllo di chi detiene il potere nel contraddittorio comunismo capitalistico, ed esiliato come la democrazia che gli stati liberali hanno esportato a suon di bombe privandosene essi stessi. Se i rapporti di produzione capitalistici riconoscono della donna e dell'uomo solo il loro ruolo di produttori, quando viene loro permesso di svolgerlo, il virus nella sua opera di contagio ne riconosce appieno l'umanità, e mentre la mette a repentaglio anche la esalta quale prius antecedente ai ruoli imposti della società, nei quali si avvolgono le persone, appunto, come maschere. Se l'affermazione di Marx che nel sistema capitalistico di produzione l'uomo ha fatto della sua essenza un mezzo per la sua esistenza ha una parvenza di verità, il virus, mettendo in evidenza la fragilità umana, ha capovolto ciò che era capovolto, ristabilendo una maggiore attenzione per la vita e per l'ambiente naturale in cui si svolge. Se siamo l'unica specie autocosciente, dovremmo saper riconoscere la ricchezza e la bellezza che ci circondano, e se vogliamo avere un avvenire, dobbiamo abbandonare l'abito desueto del predatore e vestire quello salvifico del custode. Porque yo soy callejero, donde crece la ganja, yo soy granjero. Comandante Che Guevara, the revolution starts in social media. I'm in the jungle smoking cigar and sexy media. Marching down to Babylon with me Rasta and Elidia. From Mexico to Costa Rica, pura vida. Yo quiero Che Guevara, y la revolución. Yo quiero Bob Marley, y la revolución. Zapata, Fidel Castro, y la revolución. El ritmo de La Habana, y la revolución. Yo quiero el Che Guevara, y la revolución. Yo quiero a Bob Marley, y la revolución. Zapata, Fidel Castro, y la revolución. El ritmo de La Habana, y la revolución. Rubane. Grazie Gaetano per l'intervento. Grazie a Radio Forte per l'intervista e buon lavoro. Ringraziamo Gaetano Sciortino per l'intervista. Approfitto per salutare tutte le compagne e i compagni che ci stanno ascoltando e supportando. Vi do appuntamento alla prossima puntata dei Diari di Quarantena, che dalla prossima volta cambierà il titolo in Diari Ribelli. Concludendo così un primo percorso che abbiamo fatto tutti assieme, raccontandoci le testimonianze di quello che è stato il primo periodo di isolamento forzato. La rubrica continuerà sempre con nuovi appuntamenti, ospitando nuovi interventi attuali, affrontando tematiche attraverso il racconto narrativo, la riflessione critica, la poesia, l'arte e la musica. Rinnovo l'invito a scriverci e a contattarci attraverso il canale Telegram di Radio Forte o, se volete partecipare direttamente alla rubrica dei diari di quarantena Diari Ribelli, potete scrivermi alla pagina Facebook di Psycho Jules. State ascoltando Radio Forte, Diari di quarantena, quarta puntata. That sings.